nonché da poesia intesa nel senso letterale del termine, come produzione di testi in versi e di volumi che li raccolgono, non abbia oggi come oggi un grandissimo mercato, che non si venda proprio come un bestseller, è abbastanza noto, e tutto sommato non vale la pena di scandalizzarsene. Con un po' di buona volontà si potrebbe persino sostenere che una volta tanto la situazione del mercato corrisponde al peso culturale dell'oggetto che su quel mercato si offre, peso che oggi poi non è tantissimo, che se ne dica, no? In fondo, se ci pensate, tutta la storia delle lettere occidentali può essere letta come uno sforzo progressivo di liberarsi dalla poesia. Da quando ai bei tempi della cultura orale i testi si trasmettevano a viva voce e si conservavano soltanto a memoria, per cui proprio tutto doveva essere scritto in versi, compresi i programmi politici e i trattati scientifici, la prosa ne ha guadagnato di spazio, insomma. La cultura del libro scritto non ha mai mancato di riconoscere alle opere dei poeti una posizione di preminenza, ma ha sempre avuto l'accortezza di inserirlo in una solida cornice di paratesto prosastico, con una prima una prefazione, poi le note, poi una parafrasi, tanto per far capire che la poesia non era più lo strumento di comunicazione per eccellenza, semmai era un modo per aggiungere alla comunicazione qualcosa di più, e dire che qualcosa è in più ovviamente significa sottintendere che se ne potrebbe fare benissimo a meno. E naturalmente, quando le avanguardie del nostro secolo hanno messo in discussione l'impianto formale su cui la poesia si definiva per tale, e facendone oggetto di sperimentazione, patatrac è stato definitivo, perché da allora in poi la poesia di nuova produzione è diventata competenza esclusiva di quanti appunto si interessano alla sperimentazione, che sono una categoria di lettori degni di ogni stima, ma non formano proprio un segmento importante del mercato. E la poesia già prodotta si è trovata rinchiusa nella scuola, che non è un bel posto in cui farsi rinchiudere per nessuno. Gli editori hanno continuato a pubblicare libri di poesia, ma più che altro per inerzia, e l'inerzia prima o poi si esaurisce. E sì, d'accordo, per la seconda volta in due settimane che tendo a salire in cattedra, e scusatemi, ma è una tentazione quando si parla di poesia. E poi c'è un motivo, perché in questi giorni la massima casa editrice del paese ha deciso con squisito senso commerciale di risolvere una volta per tutte il problema della diffusione della poesia tra le masse, tagliando i prezzi. Sono già apparsi, ne dicono in libreria e anche nei supermarket, i Miti Poesia, eleganti volumetti di 70 pagine, formato quadrotta compact disc, copertine capaci di attirare l'attenzione ma non volgari, 3.900 lire l'uno, 100.000 copie di tiratura. La prima uscita riguarda un quartetto d'autori disparati, in cui si notano Saffo, Montale, Nassim Hikmet e Bukowski. È una bella scommessa, no? Soprattutto se tenete conto che i testi in questione saranno presentati senza note e senza apparato, e ciò in base al presupposto, ha dichiarato a Repubblica del 4 febbraio Leonardo Mondadori, che è considerato il padre dell'operazione, in base al presupposto che la gente voglia la poesia, solo che per arrivarci deve superare lo steccato rappresentato dal prezzo, dalla libreria e da una specie di timore riverenziale, superato il quale, steccato, tutti potranno leggere con profitto autori che pure presentano qualche difficoltà testuale o di linguaggio, o hanno scritto per situazioni e società un po' diverse dalla nostra, o rispecchiano nelle loro opere esigenze ideologiche piuttosto complicate, o addirittura ci sono noti soltanto per frammenti sulla cui intellegibilità si sono scannate generazioni di filologi. Si potrebbe discutere a lungo su che cosa sta alle spalle di un presupposto del genere. Se la vecchia concezione idealistica per cui la poesia parla direttamente al cuore non ha bisogno di mediazione culturale veruna, o semplicemente il fatto che le moderne case editrici sono imprese commerciali che ragionano solo in termini di distribuzione e fatturato e non sono in grado di andare oltre, però il problema forse è irrilevante. Tutto sommato le case editrici fanno il loro mestiere, che è quello, lo dicevamo la settimana scorsa, di vendere dei titoli, non dei libri che qualcuno debba necessariamente leggere, e il fatto che i prezzi si abbassino e autori di non facile reperimento come Hikmet diventino disponibili non può che fare piacere a tutti. Tranne evidentemente ai poeti. E poeti rappresentati per l'occasione da Giovanni Giudici, che sullo stesso numero della Repubblica si scaglia con una certa energia contro l'iniziativa della Mondadori. Non credo, dichiara Giudici, nella politica demagogica del prezzo basso, e spiega che il libro che gli è più caro, proprio il libro che, del quale non può fare a meno, è il Canzoniere di Saba. E perché? Beh, perché l'ho comprato nel 1946, dice, costava 500 lire, io ne guadagnavo 3.000 al mese e ne davo 2.000 a casa, ho speso metà delle 1.000 che mi restavano. E ai Giudici non importa se i libri di poesia vendono poco, tanto si rivolgono a un lettore specializzato, gli editori non possono, dice, trattare la poesia come trattano la letteratura di consumo. Se alla parte di rozzezza letterale, alla parte di rozzezza che è in lui, non dispiacerebbe del tutto vendere 100.000 copie, i diritti d'autore sono circa 40 milioni su quel prezzo, non dovrebbe dispiacere neanche la parte di lui che è nata a Porto Venere, però invece la parte di lui che nutre il giusto rispetto verso l'arte che pratica non ne sarebbe felice. Un po' schizzoide, ma è una bella osservazione, in cui spero abbiate notato il collegamento tra specializzazione del pubblico e necessità di un prezzo alto. Il noto poeta si nasconde dietro uno strano richiamo a Freud, per cui fa parte della terapia pagare l'analista e anche l'effetto catartico del libro legato in parte al suo costo, che a me sembra l'estensione un po' stiracchiata di un concetto che è già discutibile di suo, ma è evidente che anche lui ragiona in termini di mercato. Di lettori ne vuole pochi, deve pur vivere, beh, è ovvio che l'unica scelta possibile è quella di farli pagare più che si può. Tempi duri, per la poesia. Tempi duri perché che gli editori la trattino come un puro oggetto di smercio e poco sicuro di quanto possa capire l'acquirente, purché sborsi, sarà triste ma inevitabile. Gli editori sono soggetti economici e viviamo in una struttura economica, come avrebbe fatto notare il vecchio Marx, in cui il valore d'uso cede sempre inesorabilmente il passo a quello di scambio. Ma che identico punto di vista, invertendo l'ordine dei fattori espresso dai poeti, è forse un tantino più grave, e sono tempi duri per noi naturalmente, perché la dicotomia tra un prodotto a buon prezzo ma di scarsa o nulla utilizzazione, un prodotto di alto livello rigorosamente riservato a chi dispone del contante, sta pervadendo proprio tutti i campi del vivere sociale. Anche su questo Marx aveva qualcosa da dire, ma appunto per questo oggi è molto difficile, è quasi impossibile che qualcuno lo ripubblichi, anche se lui scriveva in prosa.